Sicuramente sì, sono molte di più, sono 300 firme in più rispetto a quelle necessarie, anche perché ci tenevamo a dare un messaggio in questo senso, anche perché poi siamo consapevoli del fatto che il problema riguarda molte più persone di 2.307 firme, 207 persone che hanno messo la loro firma, e che in questo periodo avremo il compito di arrivare anche a loro, arrivare a parlare anche a tutti coloro che hanno difficoltà a trovare un'abitazione a Bologna, che siano essi studenti fuori sede, che poi magari sono costretti a dover fare i pendolari da Ferrara o da Modena, o che siano essi giovani lavoratori che non riescono a trovare una casa, insomma, che possono permettersi, insomma, tutti e tutti coloro che residenti o fuori sede hanno difficoltà a causa, insomma, di una trasformazione della città che in questi anni è sotto gli occhi di tutti. E un'altra cosa che ci tengo a dire è il fatto che in questa raccolta firme ci siamo resi conto del fatto che le persone, i cittadini bolognesi, hanno il problema sotto gli occhi, insomma, ne sono consapevoli, sanno che la non regolamentazione ferrea del mercato di Airbnb sta portando la città a una trasformazione davvero negativa, e quindi questo ci dà molta forza, perché significa che potenzialmente c'è la possibilità di mobilitare persone, di farle confrontare, di attivarsi e quindi di arrivare sempre più in alto, insomma. Ecco, intanto appunto queste firme serviranno poi per dar vita anche a un dibattito, diciamo, che dovrebbe arrivare in consiglio comunale. Ti chiederei un po' intanto di spiegarci i passaggi più burocratici, diciamo. Quindi a cosa servivano le firme e quali sono i passaggi che ci si aspetta ora, e poi dall'altra parte anche il manifesto con cui voi presentate queste firme. Allora, riguardo al funzionamento, diciamo, anche più burocratico della cosa, una richiesta di istruttoria pubblica ha dei tempi diciamo più o meno medi, nel senso che adesso il comune dovrà verificare le firme, dovrà vederne la validità. Una volta controllata questa cosa qui, si procederà, insomma, indire una, diciamo, discussione pubblica, un'istruttoria pubblica nel giro, insomma, dei prossimi 1 o 2 mesi. Una volta fatta questa discussione, che insomma sarà allargata alle associazioni che avranno voglia di partecipare, di dire loro, ai gruppi consigliari, ai tecnici anche che vorranno esprimersi su questo tema, il consiglio comunale dovrà votare una relazione che uscirà da questa discussione. Poi evidentemente nella votazione, insomma, la politica si assumerà delle responsabilità. Nel momento in cui non si vorrà, diciamo, dare seguito a delle rivendicazioni, ci si assume la responsabilità, insomma, anche di aver detto per tanti mesi, negli scorsi, insomma, 6 mesi, abbiamo detto più volte che comunque è necessario regolamentare un certo tipo di mercato, e quindi staremo a vedere, staremo anche rigidi su questo. Rispetto invece alle rivendicazioni da avanzare, noi cittadini abbiamo parlato di insomma una possibilità di discussione pubblica, e quindi fare in modo che, insomma, si discuta pubblicamente del problema, e che essi stessi potessero partecipare a questa discussione. Questo era il punto fondamentale. Per quanto riguarda invece le nostre proposte, quelle che stiamo elaborando anche da diversi mesi, di incontri pubblici, workshop, iniziative varie, iniziamo ad avere già delle idee chiare. Siamo sicuri che sia necessario un limite chiaro di abitazioni che ogni host può mettere a disposizione su Airbnb, che sia necessario limitare al minimo l'eventualità che un appartamento su Airbnb diventi di fatto una vera e propria attività di B&B, e quindi inquadrata fiscalmente in maniera diversa da come avviene oggi. Siamo sicuri che vadano fatti tanti controlli, soprattutto perché purtroppo dietro, diciamo, queste piattaforme spesso si nasconde molta evasione fiscale, si nasconde anche speculazione, come nel caso della famosissima ormai Bettina, che detiene 64 appartamenti, insomma, quando in realtà è una multinazionale che gestisce fondi immobiliari. Quindi, insomma, sicuramente procederemo in questo verso, raccoglieremo proposte e continueremo a confrontarci con chi vorrà partecipare. Perfetto, un'ultima cosa ti chiederei sia di darci un po' di contatti per chi volesse informarsi sul vostro lavoro, e sia comunque, visto che appunto non si riferisce soltanto all'istruttoria pubblica, ma c'è stato anche un percorso lungo ormai un anno, direi, correggimi se sbaglio, di incontri e lavoro e confronto collettivo, anche di sapere se ci saranno altri incontri, diciamo, in seguito. Certo, allora, per quanto riguarda i contatti, insomma, le persone interessate possono seguirci sulla pagina Facebook, che si chiama Pensiero Urbano, mentre invece anche per maggiori informazioni, soprattutto anche per dei contributi analitici che abbiamo raccolto da parte di accademici sostanzialmente, sia dell'Unibo sia di altre città, c'è anche il sito, che è www.pensierourbano.it, in cui magari, insomma, diamo anche delle giustificazioni teoriche a quello che facciamo, insomma. E quindi questo. Per quanto riguarda invece le iniziative future, ci stiamo già pensando, ci stiamo già lavorando. quindi a breve daremo informazioni anche direttamente su Facebook. Adesso ci godiamo semplicemente un giorno di riposo per aver preso, diciamo, tante firme, soprattutto se a raccogliere sono anche, diciamo, persone che non sono legate a partiti, insomma, o altre strutture che finanziano ingentemente, diciamo, queste campagne. Dopo questo giorno di riposo penseremo sicuramente a altre iniziative di qualsiasi tipo.